Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Ma qui, adesso, questi momenti non sono storie. Questo sta succedendo. Io sono qui. E ti alzi in piedi e vedi le luci sui palazzi e tutto quello che ti fa restare a bocca aperta. E senti. Se la rabbia ci fa digrignare i denti, lo stupore ci lascia a bocca aperta. La bocca parla, anche senza parole, e racconta le nostre emozioni. Tutti ne abbiamo esperienza diretta e non mancano i modi di dire, ma due matematici californiani hanno voluto vederci più chiaro. Allora, intanto che vi invito a raccontarci e a mandarci via mail al nostro numero verde 800240024, su Facebook, che cosa vi fa digrignare i denti e che cosa vi lascia a bocca aperta, ci colleghiamo con la dottoressa Giovanna Luini, medico e responsabile della comunicazione scientifica di IEO. Buongiorno dottoressa Luini, bentornata. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. È vero, noi apriamo la bocca per lo stupore, ma dottoressa Luini, due medici californiani hanno voluto capire e legare questa situazione alla matematica. Sì, hanno studiato la relazione tra lo stupore e l'attenzione, che vuol dire che se noi siamo attenti alla realtà, la osserviamo, la percepiamo, la guardiamo, abbiamo una minore probabilità di stupirci, perché forse abbiamo già visto quasi tutte le sfumature possibili. Se siamo invece rilassati, magari un po' svagati, distratti, allora sì che la nostra bocca si spalanca spesso per lo stupore, perché la realtà è capace di coglierci in qualche cosa che non avevamo visto. I bambini si stupiscono spesso ed è parte della loro bellezza, secondo me, perché il loro cervello, che sta formando tutte quelle reti tra i neuroni che serviranno da adulti, ecco, il cervello è ancora lì che si stupisce. I bambini sono più leggeri, sono più rilassati, sono osservatori, ma sono degli osservatori molto molto rilassati. Ecco quindi che i bambini si stupiscono di più. Quindi, è una funzione dell'attenzione. Sì. Lo stupore dipende da quanto siamo attenti. Se siamo attenti a cogliere tutto e vediamo tutto della realtà, ci stupiamo molto meno. Quindi per aprire la bocca, dall'emozione dello stupore, ogni tanto chiudiamo un occhio. Assolutamente sì, perché ci serve per avere anche quella magia, se vogliamo, quella distrazione leggera. Lasciando la parola a voi e ai radioascoltatori, voglio dire che io apro la bocca per lo stupore quando qualcuno mi dimostra amore o gentilezza, digrigno i denti di fronte all'invidia altrui. Grazie dottoressa Luini, aspettiamo naturalmente anche dai nostri ascoltatori le situazioni, le occasioni, le emozioni che ci fanno digrignare i denti o invece quelle che ci lasciano a bocca aperta. Dottoressa Luini, buongiorno, buona Grazie. Giornata. Grazie anche a voi. Dovevo essere un cretino come te e stare a bocca aperta ad ascoltarti. Ma stupore a parte, normalmente come tenete la vostra bocca? Aperta o chiusa o socchiusa? Se nel sentire questa domanda avete deglutito e cambiato posizione, anzi, bene per me, restate 800 24 00 24 e chiamate in studio con me la dottoressa Veronica Bismaro, odontoiatra, esperta di rieducazione funzionale del cavo orale e di occlusione. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Dottoressa Bismara, non ci basta chiedere la circonferenza addominale, l'indice di massa corporea, il numero dei battiti, sapere se si pratica attività sportiva o sedentari, vogliamo anche occuparci della posizione della bocca. I nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici si chiederanno, ma non è un po' troppo? Allora, che cosa c'entra con il nostro benessere la bocca e la posizione della nostra bocca? La posizione della nostra bocca è fondamentale per un assetto, un equilibrio posturale, cioè ormai è riconosciuto anche dalla medicina più ufficiale che c'è una relazione tra l'occlusione e la postura, ma anche tra problemi di tipo muscolare. Molti di noi noi hanno problemi a livello del collo e non sanno che può dipendere da una malocclusione o alla schiena, oppure anche problemi legati strettamente alla bocca, come le gengive che sanguinano, che si ritirano, o le problematiche all'articolazione che articola le mascelle, possono essere causati da una posizione o alterata e errata della mandibola o del mascellare superiore, cioè da una malocclusione. E comunque anche i muscoli concorrono a un assetto posturale corretto. Noi abbiamo parlato tante volte della lingua, sì, di dove deve stare, di questo muscolone di dove deve stare a riposo, di dove deve stare quando deglutiamo, ma anche le labbra devono avere una loro postura. Quindi le labbra devono stare chiuse, sì, quindi devono essere a contatto tra di loro quando siamo a riposo, ma non contratte, non devono essere contratte, perché altrimenti significa o che stiamo stringendo i denti o che comunque usiamo la muscolatura mimica quando non è necessario farlo, con grande dispendio di energia e fatica. E però non devono neanche essere aperte, cioè ci sono delle persone che hanno quella che viene chiamata in gergo una beanza labiale, cioè con le labbra a riposo si vede un buchino. Sì. Ecco, quindi, o i denti o un buchino, denti, quindi esatto, se avete a disposizione uno specchio provate a capire, sì, e a vedere se le vostre labbra sono normalmente chiuse si baciano, brava, oppure se c'è una un piccolo buchino. E poi provate a deglutire un po' di saliva osservandovi allo specchio sempre, e non dovete vedere nessun movimento delle labbra e della muscolatura mimica, ma soltanto il movimento che fa la vostra gola. Quindi anche quello è un indice di un corretto funzionamento di una funzione così importante come la deglutizione. Dottoressa Wismara, aggiungerei anche un'altra indicazione. Al mattino come vi svegliate? Il vostro collo è rigido, rilassato, marfato, eccetera. E questo siete armonici al esatto mattino, oppure musicali o dolenti? Proprio dolenti, perché lei sottolineava la relazione molto stretta che esiste tra la nostra bocca, la nostra deglutizione, il modo in cui noi chiudiamo la bocca e il benessere di tutte quelle catene muscolari. Bravissima. Che costituiscono la nostra, no? Aiutano ossatura muscolare, esatto. Quindi ci interessa sapere non solo come tenete la bocca e come deglutite, ma anche come vi svegliate al mattino. Se tenere la bocca aperta, dottoressa Wismara, come lei ci ha spiegato, può procurarci una serie di problemi, per alcuni di noi invece i problemi iniziano quando si deve aprire la bocca. Ecco che si avverte un rumorino, una dolenzia, uno scroscio, un clac, l'articolazione temporomandibolare, e lei che collega le due sì arcate, sembra, mi passi il termine, un po' arrugginita, sì, oppure lì per uscire dall'assetto. Possiamo anche testare sì, un po' questa... Sì. Allora potete mettere due dita o per parte davanti al meato acustico, davanti alle orecchie, dove sentite che c'è una sporgenza ossea, e aprire la bocca lentamente al massimo. Se avvertite un rumore provenire da quella zona, significa che c'è una incoordinazione, cioè che un cuscinetto che si chiama disco articolare, che è posto tra la mandibola e il cranio, quindi a evitare che ci sia attrito tra le due parti ossee, o è un po' deformato o è addirittura scivolato in avanti o di lato. Potete anche provare a fare dei movimenti di lateralità, perché a volte scivola anche in lateralità. E per quanto riguarda la lateralità, potete scommettere che se è scivolato di lato, magari avete qualche problema occlusale di incroci strani, un morso incrociato cosiddetto. Perché c'è quello aperto, c'è quello incrociato, c'è quello aperto, insomma, esatto, un po' come... Ci sono tante variabili di malocclusione, morso aperto quando mettiamo dentro la lingua tra i denti per deglutire, il morso incrociato quando la parte superiore, invece che essere all'esterno rispetto alla mandibola che deve stare all'interno coi denti, c'è questo rapporto invertito, cioè uno o più denti da una parte o da tutte e due le parti sono invece al contrario. E a proposito di questa importante articolazione che ci permette di aprire e chiudere la bocca, dottoressa Wismara, abbiamo pensato, anzi devo dire l'ha pensata la dottoressa Wismara, ad una domanda per i nostri ascoltatori, sì, per distribuire qualche libro della libreria di Essere Benessere. Via al domandone. Allora, della mandibola c'è una parte che è quella che si articola con la parte cranica a formare l'articolazione temporomandibolare. Ecco, la domanda è: come si chiama quella parte di mandibola che è attiva nella articolazione temporomandibolare? C'è il disco e 800 24 00 24, e questa articolazione che ci permette, a prendere e chiudere la bocca, di masticare. Noi solitamente mastichiamo male in fretta, la digestione le risente, spesso contrariamente a quello che il galateo suggerisce mastichiamo anche con la bocca aperta, quindi incameriamo anche l'aria che andrebbe invece, lo sappiamo, respirata. Ma c'è chi mastica male perché sente male mentre mastica. Esatto. Dottoressa Bismara, occupiamoci anche in questa puntata tutta dedicata alla bocca aperta e chiusa, e non solo alla bocca, cerchiamo un pochino di individuare quelli che sono i disturbi, magari piccoli segnali che noi tendiamo a trascurare, che invece alla lunga possono comportare un problema che richiede un intervento un pochino più invasivo. Ok, allora il dolore, se è a livello dell'articolazione temporomandibolare durante la masticazione, è lì che bisogna concentrarsi. Sì. L'esame squisitamente d'elezione per verificare che cosa è successo in questa articolazione è la risonanza magnetica, ci fa vedere dov'è questo disco articolare un po' bizzarro, e ci sono delle ginnastiche, delle cose che le persone possono fare per aiutarsi, ad esempio fare proprio questi movimenti di lateralità aiutano a ricondurre il disco un po' nella sua sede, o fare il movimento del cammello che mastica, quindi questi movimenti molto dolci. Che sono una sorta di stretching. Di stretching, esatto. Mentre se il dolore è localizzato in un dente, allora ci possono essere più cause. O è una causa endogena del dente stesso, cioè può essere infiammata la polpa del dente, quindi e ci può essere, è lì, ecco, lì tocca andare dal esatto, dentista, o, e poi... esatto, oppure se il dolore è più sordo può essere un granuloma, cioè un'infiammazione cronica, quindi non acuta ma cronica, che dà un dolorino costante che non si capisce, e, oppure può essere un'otturazione o una corona appena fatta che è alta, quindi un problema ancora una volta di malocclusione o in precontatto, cioè che non rispetta tutte le funzioni per cui la bocca è stata progettata, che dà dolore, quindi va visitato da un oniatologo, da una persona esperta in questo senso. Allora ricordiamo le labbra, la deglutizione, la posizione che teniamo solitamente quando stiamo lavorando, se abbiamo anche l'abitudine di rosicchiare qualcosa, penso alle persone che per concentrarsi rosicchiano ad esempio la penna o la tengono in bocca, la biro. 800 24 00 24, provate anche a masticare, tutto a posto? Chiamateci, potete come sempre mandarci dei messaggi anche al 349 238 6666 o seguirci su Facebook e su Twitter. Ma a volte noi teniamo la bocca aperta perché il naso non funziona e allora in quei casi non possiamo fare a meno di respirare con la bocca. Lo state facendo anche voi? Allora chiamateci se il vostro naso vi dà qualche problema e se soprattutto lo fa ora. Respiriamo l'aria. Il naso cola, gli occhi si arrossano, è primavera, facciamo 2 più 2, ci chiediamo, sarà allergia? Come sapete questa è una stagione delicata per gli allergici, ma il numero dei nasi colanti sembra destinato ad aumentare. In linea con noi abbiamo il professor Alessandro Fiocchi, direttore di allergologia pediatrica all'ospedale Bambino Gesù di Roma. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno Nicoletta e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Il naso è fuori uso, si respira con la bocca aperta. Potrebbe essere un'infreddatura, ma potrebbe essere anche colpa della primavera. Insomma, trattarsi, professor Fiocchi, della rinite allergica. Ma come fare a distinguerla da un comune raffreddore, dato che si può diventare allergici, come dire, all'improvviso nel corso della vita? Beh, ci sono dei sintomi che sono associati all'ostruzione nasale che possono orientare verso la diagnosi. Il più importante di loro è il prurito, i grandi lo percepiscono, i bambini lo esprimono toccandosi il naso con la manina dal sotto in su oppure da destra a sinistra. Un altro sintomo che può essere associato con la rinite allergica è è il sangue da naso, l'epistasse. Sì. Questo vale soprattutto per i bambini, ma anche qualche adulto lo può avere. E un terzo sintomo può essere l'occhiaia. Quando vi guarda il vostro marito o la vostra moglie e vi dice: ma cosa hai fatto questa notte? Potrebbe essere un'allergia. A volte poi l'occhiaia che esprime l'ostruzione nasale posteriore, cioè l'impossibilità da parte del sangue attorno al naso a defluire perché è ostruito là dietro, sì, si associa anche all'alito cattivo al mattino, perché intanto che è ostruito lì si sovrainfetta con dei germi opportunisti. Allora tutti questi piccoli sintomi possono orientare verso un'allergia. Devono essere tutti insieme oppure anche solo uno di questi unito al naso che cola? No, anche soltanto uno di questi. Direi che di tutti davvero il prurito è il più specifico. Gli allergici hanno, professor Fiocchi, immagino, preso già provvedimenti, ma per chi ha il dubbio di confrontarsi per la prima volta con un'allergia, che cosa deve fare? Beh, la via maestra è quella di saperlo e quindi di fare la prova allergica. Sì. Non è vero che non possa essere fatto un test allergico anche durante la stagione di esposizione, cioè se uno è allergico alle graminacee può benissimo fare il test adesso e saperlo. E lo possono fare anche i bambini, professor Fiocchi, a partire da che età? Lo possono fare i bambini a partire dall'età di 5 giorni di vita, quindi, nel senso che non c'è un'età inferiore a cui il test allergico non si può fare. È vero che naturalmente prima dei 2-3 anni è difficile che abbiano avuto l'esposizione necessaria per diventare allergici. Una volta che sa di essere allergico, la persona, il bambino, il genitore, deve provvedere a vincere, diciamo, la battaglia della primavera. E la battaglia della primavera si vince o scappando via in un posto dove i pollini non ci sono. Sono sarebbe poche le persone che lo possono fare. Certo, ma magari qualcuno, Nicoletta, se lo può permettere. Penso per esempio ai bambini di età prescolare, per i quali un'interruzione dell'asilo potrebbe essere anche consentita. Questa è la soluzione ideale, perché significa anche non esporli al contatto con i pollini e non far aumentare l'allergia negli anni successivi. Oppure, nella gran parte dei casi, bisogna fare in modo che i pollini non diano il danno quando arrivano a contatto della mucosa. Evitare che arrivino a contatto con la mucosa è impossibile, non c'è mascherina che li trattenga, sì, non c'è filtro che li trattenga. Può servire un po' magari qualche filtro d'ambiente messo nelle camere da letto quando tu stai dormendo, che filtra l'aria e riduce un momentino il contatto con i pollini, ma nella gran parte dei casi i pollini arrivano e colpiscono. Allora l'antistaminico per bocca o anche per spray per ridurre la congestione, sì, l'antinfiammatorio per spray per ridurre l'infiammazione. A volte tutte e due possono aiutare a superare questi mesi che diventano difficili quando sono così belli, con questa bella luce che finalmente abbiamo. Professore, ma oltre ai farmaci c'è di più o altro? Ad esempio alcune rinite allergiche rispondono bene all'agopuntura. A proposito di medicina tradizionale, dimostrata l'efficacia nella cura delle rinite allergiche dalla nostra medicina tradizionale occidentale, che è la medicina termale. Certo, l'agopuntura può servire nella rinite come nell'asma per ridurre l'ostruzione. Sì. È naturalmente un rimedio non così efficace come i farmaci, ma può essere di supporto in alcuni casi. La medicina termale serve per quelli che hanno le forme croniche, cioè se io mi accorgo quest'anno di essere allergico non serve che io vada alle terme, mi serve fare il trattamento di quest'anno. Se io invece sono un allergico di lungo corso e mi si è fermata l'ostruzione, l'infiammazione, ha creato il ristagno di secrezioni e le secrezioni si sono infettate e non riesco più a disinfettarle, bene, lì le terme mi possono aiutare a ripercorrere all'indietro questa strada che, ahimè, ho già percorso in salita. Professor Fiocchi, sempre più bambini diventano allergici ai pollini, non solo, i dati lo dimostrano, ma ci sono delle misure preventive che possono ridurre il rischio di diventare allergici? Ha dei consigli da dare alle mamme o ai genitori all'ascolto? L'allergia che si può prevenire è l'allergia alimentare, specialmente quella al latte, e lo si fa utilizzando delle formule speciali che contengono pochi allergeni. Per le allergie respiratorie sono allo studio molte misure per prevenirle. Alcuni sostengono l'uso dei probiotici, alcuni sostengono l'uso dei prebiotici oppure di integratori nutrizionali, eccetera. I genitori all'ascolto devono sapere chiaramente che nessuna di queste misure è provata. La misura preventiva che può servire in qualche modo, ma per ridurre l'allergia agli acari, è mettere i coprimaterassi specifici antiallergici, ma per i pollini in realtà loro sono nati proprio dalla natura così nati per insidiarsi, per diffondersi, che non c'è modo di evitare che si diffondano e non c'è modo di evitare che nel diffondersi raggiungano le mucose del bambino e che diano l'allergia. Grazie professor Fiocchi per essere stato con noi, buona primavera anche a lei, una stagione dura per gli allergologi, buona giornata. Grazie, grazie, torno al lavoro. Grazie, Rita buongiorno. Da Verona, buongiorno, bocca buongiorno. Aperto, bocca chiusa. Buongiorno, premetto che io bruxo durante la notte e da 3 anni ho il bite per la notte. Sì. Ho 2 domande, siccome da 3 anni circa soffro di tendinite, al tendine d'Achille, volevo sapere se c'era una correlazione e se poteva, seconda domanda, aiutarmi a fare attività fisica portando il bite anche durante il giorno o se sono troppo lontani e non c'entrano niente come problemi. Grazie Rita, dalla bocca scendiamo giù, allora, giù, giù, giù. Ci sono dei test, delle catene muscolari che possono dimostrare la correlazione o la non correlazione tra l'occlusione e altre parti del corpo, per cui assolutamente si può verificare questa cosa. Dove si eseguono questi test? Hanno un nome specifico e soprattutto chi li fa? Test delle catene muscolari, test kinesiologici, test di flessione, test posturali in generale, di solito un fisiatra, io come Nicoletta sa bene collaboro molto con la dottoressa Bertelè che sposa a piene mani questa teoria, certi fisioterapisti, certi dentisti gnatologi come me. E per quanto riguarda il bite, è un discorso che poi avremmo fatto dopo, bite è un nome, però in effetti è un dispositivo che va studiato veramente ad personam, non è possibile standardizzarlo. Oltretutto solo il nome già, bite significa morso, in teoria sarebbe una contraddizione perché la persona non dovrebbe morsicare, per cui per quanto mi riguarda gli cambierei nome. Comunque in effetti i bite a volte possono semplicemente limitare i danni dell'erosione dei denti, ma non quelli sulla muscolatura, non quelli sul sistema stomatognatico in generale, per cui vanno insomma calibrati bene. E durante l'attività sportiva si durante l'attività no? sportiva perché no? Certo, perché no? Certo. 800 24 00 24, aprite e chiudete la bocca, ma soprattutto componete il nostro numero verde per parlare con noi, con i nostri esperti. Adesso andiamo a sentire i mercati, poi il meteo. Intanto saluto Marco d'Ancona, saremo presto da lei, buona giornata. Essere e benessere. Oh, meno male che siete tornati, perché la dottoressa Vismara qua mi fa aprire e chiudere la bocca, deglutire, vedere dove tengo la lingua, se ho la deglutizione atipica, la S. Beh, però io sono facile, no, perché sono facile. Subito lì da vedere, sì, ce le ho tutte. Sì. Marco d'Ancona, buongiorno. Buongiorno a lei, Nicoletta, e complimenti per la trasmissione. Grazie. Allora, io praticamente circa una decina di anni fa mi sono addormentato in un cuscino molto rigido e da quella volta mi sono svegliato con la mascella e mandibola bloccate. Cosa è successo? Ho fatto dei controlli, sono andato dall'odontostomatologo e praticamente mi ha detto che ho una masticazione con la mandibola molto indietro rispetto alla mascella. E da quella volta mi hanno fatto fare un bite su misura perché ogni tanto comunque l'articolazione mi si bloccava. Sì. Ecco, io però da quella volta non ho avuto altri benefici, tranne che durante la notte, appunto, utilizzando questo bite. Non ci bloccava più la mandibola e la mascella. Maledetto quel cuscino, quella volta che mi sono addormentato su quel cuscino. Dottoressa Vismara. Allora, intanto credo che non sia sufficiente dormire una volta, quello può essere stato un evento scatenante. Purtroppo ci sono delle predisposizioni genetiche, cioè la forma dell'articolazione temporomandibolare, che deve essere in qualche modo rispettata dalla posizione dei nostri denti, cioè c'è una grossa stretta correlazione tra la posizione e l'inclinazione degli incisivi anteriori, dei denti davanti, e la ripidità della nostra fossa articolare, cioè la bocca si apre più o meno facilmente a seconda di come sono posizionati i denti e va rispettata l'articolazione. Per cui un test, un esame importante da fare, oltre alla risonanza magnetica che abbiamo visto, ci dà un'idea di tipo statico di come è fatta l'articolazione. Mm-hmm. Esiste un esame molto interessante e specifico che si chiama condilografia elettronica, che ci dice in modo chiaro, con dei diagrammi, come è la correlazione, se è funzionale o meno, tra la forma dell'articolazione temporomandibolare e la posizione degli incisivi anteriori. Ecco perché è importante, anche quando si fa ortodonzia, cioè quando si spostano i denti, tenere in considerazione l'osso, che quello spostare non si può, quindi bisogna sapere come una persona è fatta nell'articolazione per posizionare i denti in modo che non crei questo conflitto. Quindi non solo bellezza, ma soprattutto funzionalità. Vogliamo ripetere il quizzettone? Il quizzettone. Che ormai ha dato un super aiuto. Come si chiama? La libreria di essere benessere, così. Quella parte della mandibola che si articola con il cranio a formare l'articolazione temporomandibolare. Abbiamo Giovanni da Napoli e poi parliamo di bambini. Molto spesso i bambini, gli adolescenti respirano con la bocca aperta, di notte russano e hanno un sonno disturbato. La prima cosa che si pensa sono le adenoidi ingrossate, ma a volte hanno solo una respirazione scorretta. Insomma, il naso funziona ma non lo sanno usare. Ne parliamo subito dopo aver sentito Giovanni da Napoli. In questo modo diamo l'opportunità ai genitori che ci ascoltano, che hanno bambini piccoli, meno piccoli, degli adolescenti che magari si addormentano e dormono con la bocca aperta e russano, di chiamarci. E così pensate anche a come tiene la bocca il vostro bambino, a come deglutisce. Mm-hmm. Perché la deglutizione infantile non riguarda solamente i bambini, poi si cresce con questa deglutizione anche quando non si è più ragazzini, e questo alla lunga può portare dei problemi. Giovanni da Napoli, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti. Volevo chiedere alla dottoressa Vismara, ho mio figlio 27 anni, quando mangia siamo a tavola e quando soltanto mastica un pezzo di pane, quindi qualcosa di più duro, quindi non di morbido, sento uno scricchiolio quasi a volte disturbante, insomma, questo sempre, insomma, dottoressa Vismara, sente carino. Allora, devo svelare il quiz, però, per dire che cosa ha suo figlio. Non si può. Allora, faccia un giro di parole, perché dalla regia mi devono mandare il primo ascoltatore, okay, che ha chiamato. Allora, suo figlio soffre di una incoordinazione BIP, che è meniscale, sì, cioè c'è un'incoordinazione tra la parte della mandibola che non si può nominare e il condilo, e ecco, mi è scappato, e il disco articolare, che è quel cuscinetto che ammortizza i movimenti, proprio perché probabilmente è scivolato o in avanti o in lateralità, e quindi ogni volta che suo figlio apre la bocca lo supera, lo scavalla, insomma, e questo è il rumore che fa quella parte della mandibola scavalcando questo cuscinetto, questo disco articolare, che può essere o appunto solo deformato oppure veramente dislocato. Bisogna masticare piano, ma mettere l'occlusione in condizione di non peggiorare la situazione e comunque evitare ovviamente bruxismo, digrignamento, serramento. Ecco, cioè se bruxismo, digrignamento, serramento, non li usiamo come sinonimi, mm-hmm, ma sono davvero sinonimi? No, non sono sinonimi. 800 24 00 24, voglio salutare il professor Stefano Tirelli che è in linea con noi, buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Ormai non la presento neanche più. Non dico più che lei è docente di tecniche complementari all'Università Cattolica di Milano. Perché il professor Tirelli? Perché lui che allena e prepara gli atleti ci può dire, a proposito di bocca, se quando facciamo attività sportiva dobbiamo respirare con la bocca o con il naso? Insomma, la bocca si tiene chiusa o va tenuta aperta? Professor Tirelli. prima delle informazioni sul traffico. Ok, in generale va tenuta aperta la bocca, ok? Cioè cercare sempre di mantenere questa situazione, poi ci sono delle situazioni specifiche che non so di cui si potrebbe parlare dopo il traffico o non so se devo parlarne adesso no, prima del traffico. Vede com'è bravo lei. No, vuole darci un qualche indicazione in modo che noi poi abbiamo tutto l'occorrente per seguire il suo ragionamento? Sì, diciamo che nella corsa per esempio dobbiamo prendere tutto l'ossigeno possibile, quindi il naso e la bocca devono essere ovviamente il massimo della capacità aerobica, prendere il massimo dell'aria. Poi ci sono altri momenti in cui dobbiamo stare attenti, per esempio nel sollevamento pesi o nei momenti in cui facciamo dell'attività di forza, e quello è un altro tipo di discorso. Essere e benessere. Professor Tirelli, aperto o chiusa? Allora, aperta nel momento in cui dobbiamo fare dei lavori molto lunghi, prolungati, quindi la corsa, delle camminate, una deambulazione molto intensa, nordic walking e quant'altro. Perché questo? Perché ha due motivi. L'uno, come dicevo poc'anzi, è il fatto che dobbiamo assumere quanto più ossigeno possibile, quindi la bocca e il naso sono ovviamente le due vie respiratorie per eccellenza, di ingresso dell'ossigeno e dell'aria. Poi però un'altra cosa importante però è questa. Se io devo svolgere delle attività molto lunghe, io devo centellinare le mie energie, quindi io devo far lavorare i muscoli che mi servono per poter protrarre per esempio una corsa a lungo termine. A quel punto è inutile che io vada a contrarre muscoli, per esempio il massetere, questo muscolo che è ovviamente importante, che tende a farmi masticare, perché a quel punto io andrei a utilizzare energie su un muscolo che non ha valenza nella corsa. Certo. Devo risparmiare lì per mandarlo, per esempio, il mio apporto energetico alle gambe. Se no, come si dice, sono energie sprecate. Sì, cambia veramente. La qualità e l'intensità dell'attività motoria cambia notevolmente nel momento in cui abbiamo la piena consapevolezza del fatto che stiamo rilassando tutti i muscoli facciali, anche quelli masticatori, e quindi temporomandibolari, oppure se non ce l'abbiamo nel momento in cui invece contraiamo senza, diciamo, senza importanza rispetto a questo. Invece è diverso nel momento in cui per esempio una persona sta facendo un allenamento intenso di rinforzo muscolare con elastici, con pesi, con macchinari isotonici, perché quello invece mi aiuta, cioè il fatto di poter tenere la bocca abbastanza serrata è una sorta di automotivazione, cioè io non spreco in quel caso delle energie perché mi dovrebbero servire per esempio, come diciamo prima, per una corsa, ma utilizzo quello sforzo, quella mimica facciale che spesso è automotivante nel momento in cui, ed è anche ovviamente istintiva, nel momento in cui devo arrivare a dei carichi massimali. Per cui in generale, per sintetizzare il tutto, laddove abbiamo sport di lunga resistenza teniamo la bocca aperta, laddove abbiamo degli sport di massima intensità ma di breve durata, possiamo. Posso anche permettermi di tenerla anche socchiusa o chiusa addirittura. Grazie professor Tirelli. Intanto, grazie a voi. Voi aprite la bocca per parlare con noi, 800 24 00 24. Abbiamo detto che avremo parlato di bambini. Simona da Roma, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi. Io chiamavo per mia figlia che ha 5 anni e volevo sapere come comportarmi, perché lei di notte si grigna la bocca, quindi fa un rumore proprio di denti che si scontrano uno con l'altro, in più ha questa alitosi mattutina e lei ha le tonsille molto grandi, anche le adenoidi, però sono sane, cioè sono un bel colorito, lei ha già fatto la visita anche dall'otorino, per cui ha constatato questa grandezza spropositata, però sono sane. In più un'altra cosa volevo chiedere, lei, non so se è una conseguenza o può essere attinente, ha un prurito abbastanza importante dietro le ginocchia, per cui si scortica proprio. Beh, questo sul prurito delle ginocchia io non mi azzarderò, non lo so, magari, dottoressa Bismara, allora, stiamo nella bocca. No, ma comunque il problema è che durante la permuta dei denti, cioè quando i denti soprattutto cominciano a muoversi, magari a 5 anni comincia a perdere degli incisivi anteriori, è normale una certa quota di digrignamento dei bambini. Un'altra invece causa possibile sono gli ossiori, a volte che sono dei vermetti. i vermettini, vermettini santi dei bimbi, che si possono individuare con degli esami specifici. A volte possono essere loro che provocano il digrignamento. La litosi invece, a mio parere, può essere causata dall'ingrossamento delle tonsille e delle adenoidi, che non vanno trascurate anche se sono sane, perché un eccessivo volume delle tonsille, ad esempio, provoca una deglutizione alterata, perché la lingua non riesce a stare nella cavità orale e quindi può spingere sugli incisivi invece che sul palato e innescare quel circolo vizioso che spesso comprende respirazione orale, deglutizione atipica e malocclusione col morso aperto. E quindi è un po' un gatto che si morde la coda. Un gatto che si morde la coda, per cui è importante individuare qual è la problematica a monte, risolvere la respirazione assolutamente e disinnescare da lì poi tutto il circolo vizioso con una rieducazione alla respirazione. Spesso infatti i bambini si abituano a respirare con la bocca e anche quando vengono operati di adenoidi o le adenoidi e le tonsille si riducono di volume, continuano a respirare col naso con la bocca. È un'abitudine, come si dice, viziata. Sì, questo esatto. Dimostra, dottoressa Vismara, quanto un dentista attento, aprendo, guardando la nostra bocca e come teniamo la bocca e anche cosa c'è dentro, esatto, la bocca, riesca a fare diagnosi. A capire un po' quali sono le situazioni. Sì, anche perché prima di fare ortodonzia è importante ripristinare le funzioni, prima di mettere apparecchi. La deglutizione, come dicevamo, va studiata, individuata se è corretta o no, ma c'è anche un sintomo che può indicare un'altra patologia che è interessante, cioè il dolore o il bruciore durante la deglutizione, il dolore della bocca, il sapore metallico. Questi sintomi un po' subdoli, un po' nascosti, a volte possono invece far pensare a una patologia di tipo gastrico, cioè un reflusso gastroesofageo. E a proposito del reflusso, la malattia del tornasù, come si chiama, il cibo torna su proprio perché una valvolina non si chiude correttamente, rimane aperta o semichiusa. Ecco allora che si avvertono i sintomi tipici, come sottolineava la dottoressa Vismara, il bruciore, ma anche alcuni meno tipici, la tossettina, anche la litosi. La litosi. Allora, per chi si riconosce in questa situazione, i medici consigliano naturalmente di limitare l'assunzione di alcuni cibi, ma ci sono anche dei rimedi naturali che ci aiutano a ridurre un po' questo disturbo. In linea con noi naturalmente abbiamo il dottor Luca Boledo, naturopata. Buongiorno dottore, benvenuto. Buongiorno. Gli alimenti li conosciamo, antireflusso, ne abbiamo parlato tante volte. Quello che invece vorremmo capire oggi da lei è se ci sono dei rimedi naturali per alleviare un po' questa sintomatologia. Senz'altro, uno dei più efficaci è la comune liquirizia, che non si usa solo come ingrediente di dolci e preparazioni dell'industria confettiera, ma è anche un fitoterapico molto interessante perché sfiamma le mucose, ha proprietà cicatrizzanti e riepitelizzanti, può andare bene nell'uso, come dire, quotidiano e per problematiche modeste. Anche la semplice liquirizia, quella che si succhia, la radice proprio tal quale, ma in alcuni casi è meglio preferire, quando le problematiche sono un po' più decise, preparazioni specifiche in capsule contenenti proprio estratto di radice di liquirizia. Dottora Boledo, quindi in quanto tempo riusciamo a vedere i primi risultati? Beh, questo è molto, non dire, variabile da caso a caso. Non dobbiamo aspettarli subito, però. Non dobbiamo aspettarli subito, si parla sempre di trattamenti prolungati e, come giustamente osservavate, in affiancamento a attenzioni alimentari su cibi che possono dar fastidio, una corretta, come dire, igiene, uno stile di vita ben ragionato e pensato per non infiammare le mucose. Insomma, un po' alla essere benessere, diciamo alla così. Benessere. Grazie dottora Boledo per essere stato con noi. Buongiorno, a prestissimo. Dottoressa Vismara, vorrei farle ascoltare il testo che noi per questa settimana chiudiamo la nostra trasmissione con dei testi che abbiamo selezionato insieme al dottor Ballerini. Era un esercizio per fermare un po' i nostri ricordi, le nostre emozioni, chissà se l'hanno scritto a bocca aperta o a bocca chiusa. Comunque sentiamo il testo di Fabiola e ricordo che dalla redazione mi dicono che Anna da Brescia ha dato la risposta esatta al suo quiz. che era il condilo. E riceverà naturalmente il libro a casa. Grazie dottoressa Wismara. Grazie, vi lascio con Fabiola. La primavera tardava ad arrivare, ma alla radio Marco aveva trovato un programma di intrattenimento che era riuscito a placare la sua irrequietezza. Le piogge delle ultime settimane lo avevano costretto a rimanere in casa, mentre avrebbe avuto voglia di andare a correre per vincere la solitudine. L'abile conduttrice era riuscita a catturare la sua attenzione con la posta del cuore, la lettura di alcuni quesiti d'amore e le sagaci e appassionate... Radio 24. La passione si sente. Essere e benessere.